Allora, intanto, vabbè, raccontami la vostra situazione, quanti siete qui al teatro e con quale sarà, insomma, la vostra destinazione. Sì, allora, dopo la soppressione di luglio dello scorso anno dell'Ente Teatrale Italiano, il Teatro Valle ovviamente è stato smembrato e ricollocato nelle varie sedi del Ministero dei Beni Culturali. Al momento siamo rimasti in 7 unità ancora da ricollocare e una parte invece del personale serale è stato licenziato definitivamente e parliamo di tutti quei, diciamo, quelle persone che lavoravano la sera, che avevano ovviamente un contatto, diciamo, più diretto con il palcoscenico, che non riavranno una ricollocazione e che al momento appunto sono disoccupate. E per quanto ci riguarda, niente, sì, siamo in attesa e ovviamente le professionalità non saranno rispettate del tutto perché ovviamente il Ministero non è un teatro e di conseguenza, come ad esempio nel mio caso, ho lavorato alla promozione per 20 anni e andrò probabilmente a ricoprire invece un ruolo amministrativo che è tutta, diciamo, un'altra cosa rispetto a quello, insomma, per il quale mi sono formata nel corso degli anni. E per cui la situazione è questa, il Teatro Valle al momento non sappiamo a che uso verrà destinato, perché in realtà probabilmente sarà acquisito dal Comune di Roma, che dovrà fare poi un bando per destinarlo a un privato che si occuperà appunto di gestirlo. Al momento è tutto quello che sappiamo e aspettiamo, insomma, anche noi di vedere quello che sarà. Senti, mi raccontavi, diciamo, fuori registrazione anche della situazione appunto del personale di sala, delle maschere, eccetera. Loro non ci sono oggi, se ci puoi anche aggiornare su questo. Sì, loro non ci sono oggi e niente, ovviamente si sono trovate spiazzate di fronte a una situazione più grande di loro, nel senso che chiaramente vedersi soppresso un ente teatrale, un organismo, insomma, che lavorava ovviamente a livello, diciamo, europeo per noi italiani e di conseguenza poi vedere la chiusura del teatro in cui lavoravano, non hanno trovato spazio ovviamente per poter far valere i loro diritti in una situazione poi politica che sappiamo bene come sta andando. Per cui sì, al momento questo personale praticamente, come dicevo prima, è disoccupato e in cerca ovviamente di nuova collocazione, non si sa dove, anche perché il panorama teatrale italiano ovviamente è in profonda crisi e per cui per loro sarà doppiamente difficile ricollocarsi nel settore. Perché, diciamo, voi siete dipendenti, tra virgolette, del ministero, quindi del pubblico, invece loro, diciamo, dipendevano direttamente dal teatro, quindi venivano riconvocati ogni anno? Esattamente, sì, è un tipo di contratto appunto dello spettacolo che lega questo tipo di personale legato appunto proprio allo spettacolo, per cui alla sera a contratti di rinnovo annuale che vengono garantiti finché ovviamente il teatro è in vita da un'attività, ma una volta che il teatro ovviamente è in chiusura, il loro destino ovviamente è segnato. Voi invece che sarete, come dicevi tu, probabilmente ricollocate o ricollocati al Ministero, avete aperto una vertenza con i sindacati e state cercando di organizzarvi oppure, insomma, pensate magari di cercare di ritornare in una fase successiva? Noi in realtà niente, ci siamo trovati con un decreto che garantiva tra virgolette il posto di lavoro, per cui in realtà da questo punto di vista, dal punto di vista occupazionale, non abbiamo potuto pretendere alcunché. L'unica cosa ovviamente è stato il diritto alle professionalità che ovviamente non ci sarà, però come dire, in questo periodo ovviamente già il fatto che ti garantiscono un posto di lavoro diventa per il sindacato già una conquista, insomma, definitiva. Grazie mille.